silenzi, non sopporto gli orologi, me lo dire tu che giorno è oggi, stanza buia era il mio viso, ma tu entri e accendi all'improvviso, mi rinchiudo piano fuori. Non ti fermare mai.